Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, ma potete trovarci tranquillamente anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it, naturalmente città senza accento. E anche in DAB nelle province limitrofe che vi dà l'opportunità di ascoltarci al di fuori dell'FM e con una buona, anzi ottima, oserei dire, qualità musicale. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì per un paio d'ore, quasi ogni mercoledì, poi verso fine mese ci sarà un piccolo break, ma questo a suo tempo. Dicevo, per un paio d'ore di musica live registrata dal vivo di ogni epoca e di quasi ogni genere. Radio Città Fujiko, che anzi Città Fujiko Live Club per meglio dire, che inizia sempre con una novità e oggi non è da meno. Anche per questa stagione cercherò di iniziare sempre la trasmissione con una novità, ribadisco ancora una volta, novità per quel che riguarda Città Fujiko Live Club. Magari l'album che vi propongo oggi l'avrete già ascoltato chissà quante volte da altri colleghi radiofonici. E la novità di oggi è una novità molto interessante da parte di un gruppo che mi è molto simpatico. Più che un gruppo è un duo, sono due fratelli, Josh che suona la chitarra e canta, anzi è il cantante ma suona anche la chitarra, e Sam che suona solamente la chitarra. Vengono da Melbourne, Australia, sono attivi dal 2008 e si chiamano Teskey Brothers. Come vi dicevo, il fulcro della band sono loro due, e attorno poi girano diversi musicisti di volta in volta a seconda delle esigenze dei tour. E dicevo, mi sono simpatici perché hanno fatto 6 album in tutto, di cui 3 dal vivo, quindi rientrano appunto nelle mie simpatie. L'ultimo, che è stato pubblicato un paio di mesi fa, è quello che vi propongo oggi come novità. Si chiama semplicemente Live at the Hammersmith Apollo. È stato registrato in 3 serate, l'11, il 12 e il 13 settembre dello scorso anno, quindi siamo quasi in territorio Record Today. A quello che per, diciamo, problemi di sponsorizzazione si chiama in realtà Event Team Hammersmith Apollo. Una cosa molto particolare è che questa musica non è la solita che ci si attende da un gruppo bianco australiano, una musica molto soul, molto tranquilla, molto rilassante, però piena di fascino. Una delle caratteristiche, diciamo così, una curiosità di questo album è che nel booklet sono scritti i nomi di tutti coloro che erano fra il pubblico, quelle, non so se nelle tre sere o in quale sera, comunque ci sono tutti i nomi degli spettatori. Ripeto, l'album si chiama Live at the Hammersmith Apollo, parleremo dopo dell'Hammersmith e andiamo subito ad ascoltarci, visto che siamo a Londra, la canzone che ho scelto da questi Teskey Brothers per iniziare la giornata si chiama London Bridge. Can you see that bridge burning? You wanna do the dark? You wanna make it fire? I tell you you're dreaming. Can you see your roots bleeding? You wanna build a wanna build a tower to see an all country view. Oh, I tell you your dream, there's a tower in front of you. Have a whiskey on the rocks, show people your heaven. I tell you your dream. Can you see your eyes melting? You want a beautiful, I'll make it golden in love, baby, yeah. I tell you, you ain't dreaming, that warm of yours is burning. Ooh, yeah. Il London Bridge sta crollando, ci dicevano i Teskey Brothers, speriamo vivamente di no, ma questo brano è contenuto nel nuovo album live di questi fratelli australiani. L'album, lo ripeto, si chiama Live at the Hammersmith Apollo, è stato registrato nel settembre dello scorso anno ed è il terzo album live della discografia dei Teskey Brothers, questi due fratelli Josh e Sam. E Hammersmith contiene questo mega locale, questo mega cinema, anzi era aperto nel 1932 come cinema, poi dopo si è trasformato in una sala da concerti, ma tuttora ci sono anche dei film, soprattutto quando ci vado io purtroppo, e ha cambiato lo sponsor nel corso degli anni, l'Abbott, la Carling, sono tutte e due marche di birra, e dal 2013 ha cambiato addirittura il nome, perché prima faceva parte del circuito Odeon, poi è diventato invece del circuito Apollo, per cui attualmente si chiama Hammersmith Event Team Apollo ed è praticamente pieno di concerti di grandi artisti. Ci sono stati registrati in questo locale che contiene 5.039 persone quando la platea è in piedi, e invece 3.632 quando la platea è seduta. Dicevano, sono stati registrati decine e decine di album live in questo locale, oggi ce ne ascolteremo qualcuno. Sono talmente tanti gli album registrati in questo Hammersmith Odeon, chiamiamolo così perché oggi saranno quasi tutti dall'Odeon, e che il criterio di scelta ancora una volta è quello in ordine alfabetico dalla A alla D. E siccome siamo in Gran Bretagna, per dovere di ospitalità, andiamo con un paio di cose americane. La prima arriva da una band che ha avuto un grande successo negli anni 80, diciamo così, poi si è sciolta e si è riformata nel 97, fino ai giorni nostri sta ancora suonando e sta avendo ancora un grande successo. Si chiamano Blondie, sono la parte più pop, diciamo così, di quella che era la new wave di New York, ma è sempre un pop molto molto raffinato, molto molto bello. Naturalmente c'è di mezzo anche l'avvenenza fisica di Debbie Harry, la cantante, che ha aiutato questo successo. Lei e Chris Stein, il chitarrista, sono gli unici membri originali, anzi sono i due che addirittura l'hanno formata proprio quando erano una coppia anche nella vita. Hanno fatto 4 album live più una serie di singoli con canzoni dal vivo. Quello che ci andiamo ad ascoltare è uno di questi. Abbiamo un brano in studio nella facciata A, che è un 12 pollici, che si chiama Atomic. Nella facciata B invece, registrato all'Hammersmith Odeon il 12 gennaio del 1980, arriva una versione Blondie di un brano mitico, oserei dire, non ho problemi a usare questa parola quando si deve. Il brano si chiama Heroes, naturalmente David Bowie, il cameo di Robert Fripp alla chitarra è veramente veramente entusiasmante. Blondie. like dolphins to swim. But nothing, nothing will keep us together. We can be there forever and ever. Or we can be heroes just for one day. a crazy cat, and he sucks all dust out of his cold scat cat. Quite trust some of this, it'll show you where you're at. At least it'll help you really feel it. Swami Bang! By the time we made it up to Greasy Lake, I have my head out the window, Janie's fingers are in the cake. I think I really dug it, I was too loose to fake. Said I'm hurt, she said, honey, let me heal it. Stop it! We danced all night, knew a soul, everything. She kissed me just right, like only a lonely angel can. Felt so right, just as soft. Wanna spend all night, all night, all night, all night. Well, baby, don't know what to do to you. Like I spit out of the night, all night, all night, all night. Stand up and let it shoot right through you. Big man. Betty and Davy dancing in the moonlight. They were down near the water on a stone mud fight. Killer Joe passed out all along. And this kid, Hazy Davy, got really hurt. He crawled into the lake. And just his socks. His shirt. Me and Crazy Janie were making love in the dirt, singing our birthday song. And Janie said, oh, hey little brother, don't you think it's time that we go? So we closed our eyes and said goodbye. Where'd my hat go? Is my hat down here? Dude, just the angel roll. Felt so right. Together we move. Bruce Springsteen, la E Street Band, arrivarono per la prima volta in Europa nel 1975. Sul finire del 1975 e il 18 novembre erano in concerto al Hammersmith Odeon a Londra per un concerto che è rimasto storico e che è stato bootlegato, scusate il bruttissimo termine, tantissime volte, tanto che poi la casa discografica si è convinta un po' tardivamente a pubblicarlo nel febbraio del 2006. L'album si chiama Hammersmith Odeon 75, appunto, e il brano che ci siamo ascoltati, uno dei grandi classici di Bruce Springsteen della E Street Band, si chiama semplicemente Spirit in the Night. Thank you very much. Who was here last night then? And you'll know what this one is then. Come on, let's see you dancing. E qui partiva il brano seguente, e loro naturalmente erano Depeche Mode. Per i gruppi soprattutto britannici, gruppi artisti britannici, il concerto al Hammersmith Odeon, come in questo caso siamo ancora all'Odeon, ma per tutta la trasmissione saranno Odeon, poi i Levantin e l'Apollo arriveranno nelle prossime trasmissioni. Dicevo, è una specie di consacrazione, e lo fu anche nel 1982 per i Depeche Mode, che avrete riconosciuti sicuramente, che dopo aver perso l'anno prima, nel 1980, loro sono stati formati da Vince Clarke nel 1980, che però Vince Clarke abbandonò la band nel 1981 per andare a formare prima gli Yazoo e poi gli Erasure. Loro però proseguirono alla grande, certamente sono arrivati ai giorni nostri come una delle più grandi band del panorama musicale mondiale, e lo sappiamo benissimo. Il concerto del 25 ottobre 1982 all'Hammersmith Odeon fu registrato naturalmente e diviso in diversi singoli. Questo è uno di quelli, si chiama Love in Itself, e comprende, oltre al brano omonimo in studio, quattro canzoni registrate dal vivo in quella occasione. E questo era un grande successo della band, uno dei primi grandi successi della band, scritto da Vince Clarke, ma che loro portano ancora in concerto. Si chiama Just Can't Get Enough, Depeche Mode naturalmente. E a proposito di consacrazione, ma già non ne avevano bisogno, però i Cure, anche loro hanno le loro belle registrazioni effettuate all'Hammersmith Odeon. Questa è una registrazione che arriva da un concerto del 1 maggio del 1982, ma è stato pubblicato solamente nel 2005 nella riedizione di uno dei migliori album in assoluto dei Cure, uno di quelli che preferisco, si chiama Pornography. Il problema reale è che, come spesso accade, come spesso purtroppo, Robert Smith ha questo vezzo, cioè non si impegna neanche tanto a registrarli in sé, ma prende delle registrazioni bootleg, le sistema un po' naturalmente per quel che è possibile, e poi le pubblica. Anche in questo caso, infatti, nel secondo dischetto della ristampa di Pornography ci sono diverse bootleg audience recordings, come è scritto, da quel concerto appunto del primo maggio. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è proprio quello che dà il nome all'album che vi citavo, si chiama Pornography, loro sono Cure, qualità sonora non eccelsa. I'm Sono stati una delle band punk più note in Gran Bretagna, soprattutto un po' più sconosciute nel resto del mondo, ma sono veramente tostissimi, perché sono ancora in giro, tanto che in novembre suoneranno al 100 Club di Londra, naturalmente. E qui invece siamo all'Hammersmith Odeon, era il 31 marzo 1979, i Buzzcocks, sto parlando di loro, band che proveniva da Manchester, che è partita proprio con il punk nel 1976, poi nel 1981 si è sciolta, si è riformata nel 1989 ed è appunto tuttora viva e vegeta, anche se lascia un po' il tempo che trova una band di sessantenni che fa il punk. Questa è una mia opinione personale. Comunque è stata sicuramente una delle band che più ha influenzato il movimento in totale. Hanno fatto 8 live albums fino a questo momento. Questo è il terzo, si chiama Entertaining Friends. È stato registrato, come vi ho detto, all'Hammersmith Odeon di Londra il 31 marzo 1979. Noise and Noise, il pezzo che ci siamo ascoltati. Ok, molto velocemente, ancora una volta, sono un bel po' in ritardo, ma andiamo ad ascoltarci una band che si chiamava All About Eve. Sono sciolti, pare, definitivamente nel 2004, dopo diverse scioglimenti e reunion nel corso degli anni. La loro cantante Julian Regan è stata giudicata come una delle più belle voci mai uscite dalla Gran Bretagna. Ci sarebbe da farne, ma comunque questo è un altro discorso. Una musica molto tranquilla, molto rilassante in certi momenti, e hanno fatto diversi album live e un singolo, questo, e diversi singoli anche con brani dal vivo. Questo è uno di quelli, un 12 pollici in vinile con 4 canzoni registrate all'Hammersmith Odeon il 18 novembre del 1989. Il brano che ho scelto per voi si chiama Our Summer. Loro sono All About Eve. Oh, show tonight, praying to the light machines. She wants my heart and up my mouth, she should have fucking died for lectern, laying on the lectern trees. Wanna play, then we move around like tigers on Vaseline. You know the rhythm comes out better on the stolen guitar. You're the blessing with the spiders from Mars. Come on, come on. You really got everything got way. Come on, come on. Everything you're gonna make it, you better hang on to yourself. Non poteva mancare l'ultimo concerto di Ziggy Stardust, infatti la sera del 3 luglio 1973 all'Hammersmith Odeon David Bowie annunciò che quello sarebbe stato l'ultimo concerto, non solo l'ultimo concerto del tour, ma l'ultimo concerto in assoluto. La gente tremò perché disse: ma come, appena cominciato la carriera e già la finisce? E invece era solamente, fra virgolette, la fine del personaggio Ziggy Stardust. Tutto fu filmato e registrato naturalmente, ma uscirono migliaia di bootlegs di quella serata, finché fu pubblicato il film nel 79 e la colonna sonora del film nel 1983, appunto dopo decine e decine di bootlegs di quella serata. E sono state pubblicate diverse edizioni di quella sera, ma quella del 50° anniversario, in questo caso la 50 Anniversary Edition, è completissima, include anche due canzoni registrate insieme a Jeff Beck. E quella però che ci siamo ascoltati è il brano di apertura dopo l'intro strumentale, si chiama Hang to Yourself, naturalmente David Bowie. I know, my darling, I'll be back someday. Maybe I'll be older, but I feel just the same. It's not the land I'm missing, not the trees that grow and sway. It's some memories of laughter, the friends that shared this change. But it could be forever, a lifetime spent together. It could be forever, you and me. memories remain here, that does stay ingrained. As people go and lives change, the fire is remains the same. It's not the land I miss here, not the trees that always fail. It's the memories of matter and the friends that share this chain. The echo be forever. A lot of lives come together. The echo be forever. A lot of lives come together. It could be forever. E qui inizia il brano seguente, ma a noi interessava questo, soprattutto lo devo ammettere, per una questione di minutaggio. Infatti nella seconda parte di Città Fujiko Live Club, che è testè iniziata, c'è sempre una rubrica che si chiama Recorded Today, che si preoccupa di farvi ascoltare i brani nella giornata in cui sono stati registrati. E il criterio di scelta, siccome ci sono sempre tantissime cose, anche in questo caso di 3 settembre, nel passare degli anni ci sono tantissime cose, il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. Però oggi abbiamo 7 decadi, per cui è un po' un casino. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla fine. Infatti iniziamo dal 1969 insieme a un grande grande personaggio, grande grande cantante che, come si suol dire, ci ha lasciato troppo presto. Lui veniva da Washington, si chiamava Tim Buckley, il padre di Jeff per i più giovani che magari non lo sanno. Fra l'altro sua madre si chiamava Scalia ed era di origine italo-americana, per cui è un paesano anche quello, come si suol dire. Proprio nel momento in cui stava cercando di ampliare il proprio spettro musicale da semplice cantautore, passare a una musica più complessa che includeva jazz, blues e anche certe cose di musica d'avanguardia, purtroppo un overdose lo portò via nel giugno del 1975. Tutti gli album live che trovate sul mercato di Tim Buckley sono usciti dopo la morte del cantante. Questo in particolare si chiama Live the Troubadour 69, è stato registrato al Troubadour, naturalmente uno dei mitici, degli storici locali di Los Angeles, la sera del 3 settembre di quell'anno. Il brano che ho scelto per voi si chiama Chase the Blues Away, Tim Buckley. Come along and walk with me and learn the songs that lovers sing. When they believe, walk along the river's edge, just arm in arm along the moonlit shore. The midnight cry at just came to chase the blues. Just like a child, you cling to me, and I, from every sound around that rushes near, I whisper, it's just a breeze. Rubs your skin and rubs your breast, and as we lay, our rivers flow away. Your woman fears. I just came to change. Live the Troubadour 1969 si chiama l'album dal quale è stato tratto questo Chase the Blues Away, brano di Tim Buckley, interpretato e suonato da Tim Buckley e dal suo ensemble, un trio, che è stato registrato il 3 settembre 1969. Love rhythms on your tongue. Passiamo adesso agli anni 70 con una band che in realtà è un super gruppo, Phil Manzanera, chitarrista eccelso insieme a Roxy Music per tanto tempo, Brian Eno, tastierista e produttore, anche lui eccelso, Simon Phillips, batterista grandioso insieme ad Asia e Toto, Francis Monkman, tastierista dei Carved Air, formavano questi 801. Fu tutto di brevissimo corso, perché in realtà fecero solamente 3 concerti subito dopo il terzo i Roxy Music si riformarono, si erano temporaneamente sciolti, per cui Phil Manzanera è libero e appunto la band si sciolse, anche se poi si è riformato per qualche concerto sporadico negli anni futuri. L'ultimo concerto del terzetto fu registrato e fu fatto alla Queen Elizabeth Hall di Londra e uscì come primo e unico album della band, si chiamava 801 Live, il 3 settembre 1976. Fra le altre cose suonarono questa splendida Diamond Head. Thank you. ci sono parecchi brani strumentali all'interno di questo It All One Live, ma questo è veramente superiore, è una cosa secondo me molto molto bella. Si chiama Diamond Head e questa super band vede all'interno appunto fiore di musicisti. Il brano, guarda caso, è stato scritto da Phil Manzanera, o Manzanera, chiamatelo come volete, che poi, come sapete, ha avuto più fama con i Roxy Music. Il tutto era registrato nel 1976, naturalmente il 3 settembre di quella Queen Elizabeth Hall, che potrete trovare a Londra nel South Bank. Nel 1982 la G-Girls Band era già un po' sul baratro, anche se poi dopo nel corso degli anni, negli anni seguenti, si è un po' ripresa, ma la sua fama, che è stata principalmente negli anni 70, stava scemando. Loro partirono come G-Girls Blues Band da Worcester, quella della salsa, nel Massachusetts, nel 1967, e sono stati attivi fino al 2015, malgrado diverse interruzioni nel frattempo. Una grande live band, li vedemmo, per parentesi, purtroppo per loro, in apertura del concerto di Emerson, Lake & Palmer allo stadio comunale di Bologna nel 1974, nel giugno del 1974, furono sonoramente fischiati, anche perché l'abbinamento appunto della G-Girls Band con Emerson, Lake & Palmer non era dei più felici. Comunque hanno fatto diversi album dal vivo. Showtime, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, è il terzo, è stato registrato al Pine Knob Music Theater di Clarkston nel Michigan il 3 settembre 1982. Quello che è uno dei loro più grandi successi si chiama Centerfold G-Girls Band. Yeah. 3 settembre 1982, Clarkston in Michigan, Jiggles Band in concerto, potentissima come sempre e veramente entusiasmante, al di là della serata che vi dicevo in precedenza del giugno 74 con Emerson, Lake and Palmer. Ma comunque il pezzo Centerfold è un brano che ha scalato le classifiche americane e ha avuto tanto tanto successo. Piccola parentesi rosa, Peter Wolf, il cantante della band, è stato a lungo il marito di Faye Dunaway, una coppia veramente molto molto interessante, molto anche molto bella. Jiggles Band, quindi 1982. I see Per la serie una cover non fa mai male. Questa era naturalmente Bad Moon Rising dei Creedence Clearwater Revival. L'esecuzione era quella di una band britannica che si chiama Blue Aeroplanes. Vengono da Bristol e sono partiti nel 1981 con una serie di concerti in gallerie d'arte e in musei, per questo vengono definiti art rock, come sempre è una cosa che lascia il tempo che trova. I due fratelli Langley sono i membri fissi della band, dove naturalmente, come succede anche con i Teskey Brothers che ci siamo ascoltati in precedenza, ci sono musicisti che ruotano intorno ai due fratelli. Hanno fatto due album live. Questo che ci siamo ascoltati fa parte di una serie che si chiama Access All Areas, cioè accesso a tutte le aree, sono i pass che danno ai VIP nei concerti, e consta, come tutti gli altri numeri di questa serie, di un CD e un DVD. Questo è stato registrato al Town & Country Club di Londra il 3 settembre 1992, Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival, interpretati dai Blue Aeroplanes. Ce lo siamo ascoltati nella prima parte della trasmissione insieme alla E Street Band, ma Clarence Clemons, sassofonista eccelso, durante un periodo di inattività della band pubblicò alcuni album solisti, fra cui un paio di album live che si chiamano nello stesso modo, Live in Asbury Park 1 e Live in Asbury Park 2, perché sono stati registrati nella stessa serata. Clarence Clemons, detto Big Man, è stato per 30 anni il braccio destro di Bruce, prima purtroppo di andarsene il 18 giugno del 2011. I due album che vi ho citato sono accreditati alla Clarence Clemons Temple of Soul. Ricordo di un concerto a Modena di Clarence Clemons, pubblico pagante, fra cui io, 25 persone, credo, più o meno, una cosa veramente incredibile e atroce. Il disco è stato registrato, i due album sono stati registrati il 3 settembre del 2001. Questo è il pezzo che vi propongo, un pezzo che Clarence Clemons usava a suonare con la E Street Band in apertura del secondo set, quando ancora Bruce e la E Street Band facevano due sets. Si chiama Paradise by the Sea ed è un brano che è stato inedito per tantissimo tempo, poi è stato pubblicato nel live 1975-85 da parte di Bruce. Ma qui ce lo ascoltiamo appunto a Clarence Clemons Temple of Soul. Il brano si chiama Paradise by the Sea. Here's a little Asbury Park kind of song for you. Some New Jersey rock and roll for you. We'll be right back. Clarence Big Man Clemons con i suoi Temple of Soul, Paradise by the Sea, il brano che ci siamo ascoltati dall'album che si chiama Live in Asbury Park, il primo uscito col medesimo titolo, perché appunto il concerto è tratto dalla stessa serata, lo stesso concerto del 3 settembre del 2001. Non è colpa mia se i King Crimson hanno fatto migliaia di registrazioni dal vivo, e è colpa mia invece se ve li propongo abbastanza spesso, ma credo che non dispiaccia a nessuno. Qui abbiamo un quintuplo CD in box set che si chiama Audio Diary, il diario audio che racchiude le highlights dei tour dal 2014 al 2018. Sono un CD per ogni tour, per ogni anno. Quello che ci andiamo ad ascoltare riguarda il tour del 2015, è stato registrato al St. Evans Hall di Cardiff, in Galles, naturalmente Gran Bretagna, il 3 settembre 2015. Il brano in particolare è un'unione di due brani, Radical Action e Meltdown. Loro sono King Crimson. Tarda un po' ad arrivare, ma abbiate fiducia. Thank you. the truth that suffocate language instead. Drowning in doublespeak lexicon, leaves him washed up out of reach. Devised and contrived, injected under his skin. Crimson, quindi da Cardiff, 2015, 3 settembre, Radical Action, Meltdown, il brano che ci siamo ascoltati, purtroppo non ce l'ho fatta, il settimo rimane fuori, anzi ci ascolteremo un paio di minuti, tralascio tutti i convenevoli e vi do solamente appuntamento a mercoledì prossimo alle 10.30, sempre su Radio Città Fujiko. Il brano che ci andiamo ad ascoltare arriva da Willie Nile, il suo ultimo album live, si chiama Live at the Ariel House Club, è stato registrato il 3 settembre del 2022 e contiene questa This Is Our Time che ci ascolteremo solamente per qualche istante. Ciao a tutti da Nevio. Stars are lined up, the moon on the rise. There's a train in the station. There's a fire in the eyes. We've been waiting here too long. The time has come to go. The engineer is ready. Can you hear the whistle blow? This is our time, this is our place. This is our moment in the human race. This is our journey, this is our climb. This is our best, this is our time. We'll travel across the mountains, through the deserts and the streams. See the good, bad, ugly. Find out what it all means. Been a long time coming. People got to be free. Can you hear the diesel humming? Falling out for you and me. This is our time, this is our place. This is our moment in the human race. This is our journey, this is our climb. This is our place, this is our time. Say goodbye to all your troubles. Don't pay them any mind. Hold me close, take my hand. We'll leave it all behind. You don't need a ticket. There's nothing to declare. The time has come to stand up for people everywhere. This is our time, this is our place. This is our moment in the human race. This is our journey, this is our climb. This is our place, this is our time. Can you feel the power? Can you feel the drive? Can you feel the feeling that it's good to be alive? This is our time, this is our place. This is our moment in the human race.